Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, oggi in diretta, come è già avvenuto durante il tour di Focus Economia in giro per l'Italia, in diretta dalla sede di Banca Intesa. Questa volta siamo a Milano, iniziamo il tour, chi lo ricorderà, più di due settimane fa da Vicenza, dall'epicentro di uno degli epicentri delle crisi bancarie di questi ultimi anni. Oggi siamo a Milano, poi il tour continuerà in altre chiaramente piazze italiane, sempre per ragionare con uno dei principali banchi italiani di quello che è l'andamento dei prestiti alla luce sia dei rischi, e anche di questo parleremo perché ci sono elementi di cronaca, dei rischi che pone in essere una revisione del modo in cui verranno trattati a livello europeo le sofferenze bancarie. Qui il tema è Nui, e quindi Daniel Nui, il presidente del Consiglio di Sorveglianza della Banca Centrale Europea, che, dico già in anticipo, oggi ha avuto posizioni più morbide sulla revisione dei criteri da utilizzare per quello che riguarda il 2018, sia per quello che riguarda invece i prestiti effettivamente dati e che hanno in previsione di dare alle imprese del territorio. Sempre nella logica però di non limitarsi, diciamo, all'andamento del credito, su quello abbiamo anche dei dati settimanali, ma della logica nuova, che se parliamo di rivoluzione 4.0, che per le imprese ha voluto dire in primo luogo digitalizzazione e utilizzo degli incentivi fiscali messi a disposizione dal governo, ma più in generale vuol dire ripensare, rimodulare, riformulare il modello di impresa. È chiaro che se questa è la sfida, anche la banca che deve prestare soldi all'impresa deve riadattare i suoi modelli, non può limitarsi, lo dico subito, ad essere un erogatore di credito to cure come nel passato, deve in qualche modo accompagnare le imprese verso questo cambiamento, quelle che non l'hanno ancora fatto. E ne parleremo con chi ha la delega proprio in Intesa San Paolo del territorio, non a caso si chiama Banca dei Territori, quindi del rapporto con imprese oltre che clienti nei territori. Ci occuperemo chiaramente oggi anche dei dati sulla occupazione e disoccupazione, che vedono sostanzialmente stabile il dato, un miglioramento dal punto di vista italiano per quello che riguarda la disoccupazione giovanile, ma cresce l'occupazione dei dipendenti della fascia over 50, il tasso di disoccupazione dei giovani a ottobre scende al 34,7%, era già caduto a marzo, è il livello più basso dal giugno del 2012, la disoccupazione complessiva nel paese è ferma all'11,1%, a ottobre gli occupati, distinguiamo sempre tra disoccupati che sono quelli che non riescono a trovare un lavoro tra quelli che lo stanno cercando, e gli occupati che invece sono quelli che lavorano, tra tutti, fatto 100, il numero di chi potrebbe lavorare. Dicevo, gli occupati in Italia sono leggermente scesi di 5.000 unità su settembre, restano più alti di 246.000 unità sull'ottobre del 2016. La cosa interessante, a mio avviso, non è solo questa, ne parleremo fra un attimo, è anche che nel rapporto Union Camere, si chiama Sistema Informativo Excelsior di Union Camere, ogni anno va a fotografare l'incrocio tra domanda di lavoro e offerta di lavoro, emerge una cosa abbastanza disarmante, diffusa oggi a Verona nel corso di Job Orienta, e cioè che è il Salone Nazionale dell'Orientamento per la Scuola, della Formazione, e cioè che sostanzialmente mancano, le imprese faticano ad assumere e a trovare un laureato su tre di quelli di cui hanno bisogno, cioè su 450.000 laureati richiesti 150.000 non vengono trovati, e allo stesso modo un diplomato su cinque con le caratteristiche richieste, sono 290.000 neodiplomati che non riescono a essere trovati, chiaramente non perché manchino in senso stretto i diplomati, ma mancano i diplomati e laureati nelle figure professionali che vengono richieste. Dopodiché parleremo chiaramente anche della borsa, più 0,50% Milano, per quello che riguarda Milano è quella più positiva grazie in parte anche al mondo bancario, perché Parigi perde lo 0,22, Francoforte invariata, scusatemi, Londra meno 0,60, Dow Jones più 0,70%. Dicevo, il mondo bancario più 4,70 B per banca, bancario assicurativo Unipol SAI più 2,90, UbiBanca più 2,40, Unipol più 2%, Banco BPM più 1,70%, Mediobanca più 1%. e 60, visto che siamo qui a Intesa San Paolo, citiamo anche Intesa San Paolo più 0,40%, tra i non bancari Campari bene più 3%, ST Microelectronics recupera un po' più 1,70%, Italgas più 1,60%, Luxottica più 1,40%. Chi perde oggi sul listino principale? Meno 1,90% Ferrari, meno 1,70% Saipem, meno 1,1% Azimut e meno 0,60% le Poste Italiane. Ultimo tema che tratteremo è tra l'altro della formazione necessaria, parleremo anche con i responsabili di fondi imprese, cioè di chi ha le risorse all'interno di Confindustria, in un accordo con Confindustria e sindacati per fare la riqualificazione e la formazione all'interno delle imprese, e fondi impresa se ne occuperà poi in un convegno importante il prossimo 5 dicembre, scusatemi, ma dicevo, come ultimo tema affronteremo anche quello che molti vogliono vedere come un'ennesima sconfitta dell'Italia. Mi spiego, dopo la vicenda ormai arcinota della perdita con sorteggio dell'Agenzia Europea del Farmaco per quello che riguarda Milano, molti speravano nella candidatura del Ministro dell'Economia Padoan come presidente dell'Eurogruppo, quindi chi andrà a sostituire Rom Dijsselbloem, che personalmente non rimpiangeremo, viste le posizioni totalmente filo-tedesche che ha sempre avuto. Ma al di là di questo, che non c'entra, non c'è la candidatura del ministro Padoan. Probabilmente più papabile è il portoghese Mario Centeno, c'è anche lo slovacco Peter Kazmir, il lettone Dano Zola, il ministro delle finanze lussemburghese Pierre Gramegna. L'elezione del nuovo presidente è prevista per il prossimo lunedì 4 dicembre, il voto a maggioranza semplice, quindi serviranno almeno 10 voti su 19, ma al di là di questo il candidato sarà di area più o meno socialista, ecco perché il candidato più forte appare appunto il portoghese Mario Centeno, ma è sfumata la candidatura di Padoan, pur essendo oggettivamente molto apprezzato a livello europeo. Ieri il Presidente del Consiglio da Abidjan ha detto, ma insomma, difficile sostenere una candidatura quando un governo ha pochi mesi ed è in scadenza, però molti notano un ennesimo, non dico schiaffo, ma un'ennesima debolezza dell'Italia a livello europeo. Ieri il Premier Gentiloni aveva detto: ho l'impressione che tutti abbiano una grande stima per Padoan, ma ho l'impressione che vogliono scegliere un presidente per un periodo diverso che non sia 3 mesi, nel senso che si va a scegliere un ministro che teoricamente resterebbe in carica più a lungo. E ha continuato Gentiloni: salvo sorprese, la durata del governo da me presieduto è piuttosto limitata e questo costituisce obiettivamente un problema, come mi hanno confermato anche diversi leader europei. E allora, di riffa o di raffa, vuoi perché viene sorteggiata Amsterdam e c'è il tradimento, diciamo, tedesco e spagnolo, vuoi perché abbiamo portato avanti 2 candidature parallele. Insomma, il dato di fatto è che qui non riusciamo a candidare nessuno nei posti chiave, con massimo rispetto per il presidente Tajani. Mario Draghi è cosa ormai arcinota e va a scadenza nel 2019, la candidatura della Mogherini l'abbiamo sempre ritenuta abbastanza inutile e mi sembra, col massimo rispetto per la Mogherini, non inutile la Mogherini, ma il ruolo sicuramente non è di quelli di grande incisività a livello europeo. 349-238-6666 per sms e whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Ma vedo già molti che chiedono del Bitcoin. Abbiamo detto, ridetto e stradetto che Bitcoin è una bellissima opportunità per chi ama il rischio, la volatilità, non deve poi venire a rompere le scatole se i valori crollano, cioè, nel senso, non è una valuta di scambio. Questa resta la posizione di chi vi parla e devo dire della maggior parte degli ospiti che qua sono intervenuti. Ieri, in poche ore, dopo aver superato gli 11.000 dollari, ripiega, ha ripiegato ed è sceso a 9.500 dollari. Tutto bene, nel senso che quando ti vuoi investire in un mercato o in un settore o in uno strumento così volatile, ma senza neanche che vi sia un legame a quelli che si chiamano fondamentali, ti prendi il rischio di avere delle crescite improvvise e anche dei crolli improvvisi. Certo che all'inizio anno valeva 2.000 dollari, io invito tutti i piccoli investitori, a meno che non abbiano una voglia pazza per andare alla roulette, a quel punto il rischio Bitcoin vale anche come il rischio casinò, a mio avviso, a stare molto attenti e a non considerare la valuta di scambio piuttosto strumento di investimento altamente speculativo. Ancora per quello che riguarda invece la Brexit, oggi Theresa May è rimasta molto abbottonata nonostante le varie anticipazioni della stampa britannica diffuse anche ieri sull'assegno, sull'entità dell'assegno che la Gran Bretagna staccherà. Ha detto niente concordato fino a quando tutto sarà concordato, stiamo ancora negoziando. Ha detto di non riconoscere al momento i 45-55 miliardi di euro di cui scrive la stampa. Nel frattempo il dato oggi dell'Ufficio Nazionale delle Statistiche Britanniche ha visto un calo netto dell'immigrazione in Gran Bretagna, 230.000 ingressi annui, il primo dato post Brexit. È chiaro che questo è un effetto chiaramente delle preoccupazioni sulla libera circolazione dei cittadini anche in Gran Bretagna, ed è il dato più basso che da tempo registra la Gran Bretagna. Ancora l'Unione Europea, la disoccupazione, ne parliamo fra un attimo, anche l'inflazione è all'1,5% a novembre contro l'1,4% registrato a ottobre, la disoccupazione a livello di Unione Europea 19 scende all'8,8% in un anno, recuperati 1,5 milioni di posti di lavoro, devo dire in questo caso l'Italia resta ferma all'11,1% come disoccupazione complessiva. Sull'inflazione invece abbiamo avuto un più 0,9% a novembre rispetto a novembre 2016, un rallentamento quindi dell'inflazione, tant'è che l'inflazione acquisita per il 2017 è all'1,2%, un dato quello italiano ben distante dal 2% a cui guarda Mario Draghi prima di iniziare a alzare i tassi di interesse e a ridurre il quantitative easing. Faccio notare che a livello europeo è all'1,5%, quindi un po' più alta ma ancora secondo la BCE insoddisfacente. Il decreto fiscale è legge, è passato come vi hanno ricordato i nostri GR24, quindi bonus bebè per un anno, pronti a cambiare, ha detto, è passato al Senato, pronti a cambiare, ha detto Morando del PD. Il ministro Calenda ha definito la manovra in discussione al Parlamento come giusta e equilibrata, ha detto di essere preoccupato dal populismo elettorale. Sempre il vice ministro dell'economia Enrico Morando ha detto che il governo è pronto a compensare per la web tax proprio il mondo bancario. Ha detto: sappiamo che senza il contributo del sistema bancario e degli intermediari finanziari la web tax delineata non avrebbe potuto funzionare, per questo non abbiamo esitato a introdurre l'ipotesi di un sostituto d'imposta, ma siamo pronti a trovare anche altre forme di compensazione, perché siamo consapevoli che le banche dovranno svolgere un adempimento in più. Ho ancora due notizie prima di arrivare proprio alle banche e all'occupazione. Intanto il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, abbiamo parlato a lungo ieri di un'azione a nostro avviso sbagliata non nel merito ma nel metodo, nel senso che prima Regione e Città di Taranto dovevano sedersi con le parti, quindi governo e nuovi azionisti dell'ILVA, e poi eventualmente fare ricorso al TAR, come ha chiarito a mio avviso molto bene il ministro Calenda, dicendo che gli stava per convocare il tavolo. La prima volta non si presentò il sindaco di Taranto ma solo Emiliano, ma il tavolo vero e proprio non è mai partito. Rassicuro i miei cittadini, ha detto Emiliano, che le intimidazioni non avranno alcuna influenza sulle nostre decisioni, andremo avanti senza paura per chiedere la decarbonizzazione dell'ILVA in coerenza con gli obblighi internazionali e per evitare che Taranto debba morire per lavorare. Io non ho ancora capito qual è l'alternativa che propongono il sindaco di Taranto e il governatore Emiliano. Faccio notare che ArcelorMittal esprime la propria preoccupazione a proposito del ricorso al TAR contro il decreto sull'ILVA. Ieri Calenda ha bloccato tutti i tavoli perché finché non si pronuncia il TAR di Lecce non andiamo avanti con nessun tavolo. In consonanza con le dichiarazioni del governo e delle organizzazioni sindacali in merito all'impatto che tale ricorso potrebbe avere su ILVA, sui suoi lavoratori, sulle comunità locali e gli altri stakeholder. Sempre ArcelorMittal aggiunge è un vero e grande peccato che la nostra volontà e capacità di realizzare gli investimenti previsti possano essere pregiudicate da questo ricorso. E allora entriamo nel tema che adesso affronteremo proprio con chi ha la delega nel credito a imprese e anche cittadini. Intanto una cosa che riguarda la Banca d'Italia, non c'entra nulla con quello che sto per dire, però è interessante quello che ha affermato oggi il procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, alla commissione di inchiesta sulle banche, la commissione bicamerale, quanto alla mancata fusione tra nel 2014-2015 tra Popolare di Vicenza e Banca Etruria. Abbiamo sempre detto che fu molto strano che la Banca d'Italia invitasse al Popolare di Vicenza a esplorare un'acquisizione di Etruria, perché un malato che compra un malato non ha mai fatto un paziente sano, diciamo, e questo secondo me è una di quelle cose su cui la Banca d'Italia non ha mai risposto fino in fondo. Ora ascoltate cosa dice il procuratore di Arezzo Roberto Rossi, definendo un poco strano che venisse dalla Banca d'Italia incentivata l'aggregazione di Banca Etruria con Popolare di Vicenza, e aggiunge Rossi, leggendo dalle fonti aperte alle ispezioni di Via Nazionale, la Popolare di Vicenza era in condizioni simili. Dobbiamo ritenere, da quello che a noi risulta, che Banca di Vicenza era ritenuto un partner di elevato standing, perché questo è il punto che abbiamo, questo quadro che ci viene fornito da Banca Etruria, e poi abbiamo letto le dichiarazioni che hanno in un comunicato rese a voi proprio da un ispettore della Banca d'Italia, in cui ci venivano relazionate le condizioni di Banca di Vicenza, che non erano dissimili a quelle di Banca Etruria, perché parla di oltre 200 milioni di crediti deteriorati. Beh sì, abbiamo trovato un po' singolare, diciamo. Singolare che venisse così fortemente incentivata questa aggregazione. Dice il procuratore capo di Arezzo, mi sembra. Io lì non ho mai letto una risposta, diciamo, articolata. Comunque la commissione continuerà a lavorare della Banca d'Italia. Ma andiamo ai temi di cui vorrei parlare con Stefano Barrese, che ringrazio per essere qui nei nostri studi, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa San Paolo, cioè 11 milioni di clienti, di cui 10 milioni di famiglie e, se ben ricordo, più o meno 750.000 tra imprese e aziende retail. Barrese, buonasera. Buonasera a tutti, grazie. Partiamo poi parleremo di formazione e di 4.0, che cosa significhi per voi. Vorrei però farle ascoltare che cosa ha dichiarato, visto che questo sta muovendo anche il mercato, la mitica Nui. Dico mitica perché non sono quasi mai d'accordo con lei, men che meno stavolta. Ricorderete che è una vicenda che ha scosso profondamente le banche italiane. Sono state alcune anticipazioni in cui sostanzialmente si sosteneva che dal 1 gennaio vi sarebbero state norme molto molto più stringenti per il modo in cui le banche contabilizzano i prestiti alle imprese e le eventuali sofferenze. Addirittura, cosa che ritenemmo assurda, massimo 7 anni, se non ricordo male, per i mutui, anche quando con un mutuo, diciamo, mutuo per la casa, tu hai una garanzia abbastanza chiara, e 3 anni per tutti gli altri. Questo chiaramente diventava penalizzante e diventerebbe penalizzante per qualunque forma di nuovi prestiti, perché varrebbe per le sofferenze dal 1 gennaio 2018 in poi. Scontro anche abbastanza acceso con il Presidente dell'Europarlamento Tajani, che ha detto: queste sono iniziative di carattere politico, non spettano alla BCE e soprattutto non spettano alla Presidente del Consiglio di Vigilanza Bancaria della BCE. Questo addendum ha una valenza politica, di politica industriale, quindi spetta all'Europarlamento. Devo dire che sta un po' ritracciando, come potremmo dire, la Nui. Ha detto noi non parliamo degli NPL esistenti, ma soprattutto non ci saranno misure automatiche, e già è qualcosa, ma valutazioni e approccio caso per caso. La vigilanza della Banca Centrale Europea non va al di là del proprio mandato. Abbiamo l'obbligo di affrontare le vulnerabilità del settore bancario per assicurare l'applicazione delle regole della politica di supervisione. Ciò include le linee guida per assicurare un trattamento giusto ed equo delle banche, in particolare sul tema così delicato come la copertura dei crediti problematici. Non ci saranno azioni automatiche, ma la BCE discuterà con ciascuna banca le coperture, caso per caso, a seconda del profilo di rischio della banca. Per essere molto chiari, non parliamo degli stock, non parliamo degli NPL esistenti. Allora, Barrese, visto che sta cosa poi andava a impattare direttamente sul suo lavoro, ripeto, avete 11 milioni cittadini, di risparmiatori e 10 milioni di famiglie, scusatemi, e 750.000 imprese. Si sente più tranquillo adesso? Ma devo dire che questa affermazione sicuramente è un'affermazione positiva, nel senso che rende più morbide alcune posizioni che appunto abbiamo ascoltato nelle scorse settimane. Sicuramente il tema del credito deteriorato è un tema rilevante, deve ridursi, e parlo per quello che riguarda la nostra banca, lo sta facendo ormai da diversi anni con un approccio molto focalizzato, tutto concentrato al momento sull'interno. E sicuramente il tema è un tema rilevante, una modalità più dolce che possa consentire anche l'introduzione di modalità nuove è da fare con grande attenzione, perché non è poi il credito deteriorato in sé, ma come può riverberarsi sul nuovo credito, perché poi naturalmente queste cose vanno prese in considerazione sulle logiche con le quali viene tracciato il merito creditizio al momento della concessione e il pricing dello stesso, per cui assolutamente positivo. Ecco, diciamola proprio fuori dai denti, ma nel caso fosse passata la prima versione, perché adesso la NUI dice non è che siamo contro, non è un'iniziativa impropria, risponde con un'escusatio forse non petita a Tajani, nel caso fosse passata la prima bozza che abbiamo visto, che era automatica, lì eravate preoccupati? Ma sicuramente era un elemento più critico, e non è un caso che le voci, diciamo, contrarie sono state numerose. Poi il tema rimane, perché il credito deteriorato è un tema che va affrontato, quindi non è un tema che va lasciato così com'è. Devo dire che tutto il sistema bancario in modo più o meno accentuato lo sta affrontando, e la riduzione del credito è visibile a livello di sistema e non di singola banca. Ecco, visto che parliamo di credito, come sta andando l'erogazione del credito e anche la qualità del credito? Ho visto un miglioramento complessivo dei crediti deteriorati, meno 9% a novembre, quando avete fatto i 9 mesi, meno 9% rispetto a fine 2016, per un totale di 27 miliardi. E come sta andando l'erogazione del credito sul territorio? Poi le farò anche un accenno a quello che capiterà l'8 dicembre, ma andiamo col dato intanto generale. Ma allora, il credito deteriorato, come dico, sta riducendosi sia gli stock, ma la cosa anche più interessante è la continua contrazione dei flussi. Quindi i flussi anno su anno, e quest'anno lo conferma, si riducono con un trend significativo a due cifre, parliamo di 20-30% di riduzione dei flussi anno su anno mediamente, e questo è un indicatore importante di quanto l'economia in generale sta recuperando. Si associa a una crescita degli impieghi che si conferma anche quest'anno, una crescita importante. Noi continuiamo per esempio sul medio lungo termine ad avere un ritmo significativo, sia che sia sul credito ai privati che sia sul credito alle imprese. Contiamo anche su questo aspetto di raggiungere quell'obiettivo che ci eravamo dati, di fare più di 50 miliardi di erogazione a medio lungo termine. Ecco, dopo la pausa andremo a cercare di capire come erogate credito, qui entriamo anche nella rivoluzione 4.0, rivoluzione industriale in corso, perché come dicevo all'inizio cambia anche il vostro approccio, non potete pensare di erogarlo nel modo precedente a questa grande trasformazione in atto, che sta facendo morti e feriti, ma sta anche facendo dei salvati, non solo i sommersi, ma ci sono anche i salvati, aziende che vanno bene. Mi interessa però capire come si sta muovendo la richiesta di credito nel territorio dove è iniziato questo nostro viaggio, eravamo a Vicenza appunto. Voi l'8 dicembre avrete l'integrazione con le due banche venete, quindi Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Lì sappiamo che c'è stato uno shock di carattere economico fortissimo, più o meno quasi 13 miliardi di risparmi bruciati nell'asse, diciamo, tra Vicenza e Montebelluna, ma c'è stato anche uno shock di carattere psicologico, nel senso che le banche venivano viste come, diciamo, le banche del territorio, e quindi affiancare l'imprenditore, nessuno si sarebbe immaginato un crack, un danno e anche delle comportamenti del genere. Voi notate che c'è ancora un territorio sotto shock, o lentamente state riprendendo e rilacciando i rapporti con famiglie e imprenditori? Noi abbiamo iniziato a rilacciare i rapporti il giorno successivo all'operazione, per cui mi ricordo il 26 giugno eravamo già nel nord-est, e noi siamo sempre stati nel nord-est, ma in realtà eravamo lì con una finalità ben diversa, che era proprio quella di tranquillizzare il territorio, tranquillizzare le relazioni. Abbiamo incontrato da subito imprenditori, associazioni, e devo dire che questo lavoro, che dopo sei mesi mi porta a dire che la tranquillità è una parola che possiamo spendere, nel senso che fa parte proprio di aver portato queste due banche nell'alveo di Intesa San Paolo. Intesa San Paolo chiaramente dà più tranquillità sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista del risparmio, dal punto di vista dell'erogazione del credito. Il lavoro grande che è stato fatto è proprio un lavoro di relazione, cioè tranquillizzare le relazioni sulle imprese, in particolare che non ci sia quella riduzione di credito, quel credit crunch che tanti hanno paventato a valle dell'operazione stessa. Direi che questo aspetto è un aspetto che io non vedo più, ero la settimana scorsa nuovamente nel nord-est con vari imprenditori, sicuramente si aspettano molto, noi siamo ben disposti, vogliamo farlo. Per tranquillizzare il territorio da subito abbiamo messo a disposizione un plafond aggiuntivo che noi ci auguriamo di poter erogare, quei 5 miliardi, no? Per portare a 55 l'ammontare complessivo del 2017, ma in realtà era un elemento che era proprio lì a sterilizzare le preoccupazioni. Allora, dopo il metodo della pubblicità, invece, andiamo a cercare di capire come state erogando credito in generale, quindi non solo nel caso di Vicenza e Montebelluna, e come state anche cambiando o accompagnando, diciamo, l'erogazione di credito. Oppure mi puoi dire: no, guarda, lo stiamo facendo come una volta, il merito di credito cambia poco, il rapporto umano, conoscenza dell'azienda, analisi anche dei dati sensibili. A mio avviso sarebbe insufficiente, perché se voi siete d'accordo che il 4.0, la rivoluzione industriale, la quarta rivoluzione industriale, non stia investendo solo le imprese manifatturiere, solo le imprese dei servizi, solo il mondo dei consumi, ma stia investendo tutti i soggetti economici, è chiaro che anche voi dovreste cambiare approccio. Su questo la risposta dopo il metro e la pubblicità. 349 per sms, 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Meteo. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non sorrido per alcuni messaggi che stanno arrivando, ma andiamo sul modo di erogare credito, visto che con Stefano Barrese già avevamo parlato mesi fa di come sta cambiando complessivamente l'economia, che non è un adattamento a una crisi, è un cambio strutturale di paradigma, una rivoluzione vera e propria. Questo include e colpisce in primo luogo le imprese. E abbiamo detto che, insomma, con tutto quello che è successo e anche con i miglioramenti in corso, però manca l'appello un'impresa su 5, e quindi il danno è stato fatto, però significa anche un ripensamento del modo in cui la banca eroga credito, non semplicemente, certo che è importante il credito in sé, ma a mio avviso accompagnato anche a una consulenza più alta e anche un accompagnamento verso chi non ha ancora capito tutte le sfide che ha davanti. Intanto, come state cambiando voi nell'approccio, e poi vorrei capire che cosa vedete in questa ripresa in atto, ma ancora molto macchia di leopardo. Sicuramente vediamo la possibilità di utilizzare degli schemi che possano portare la banca insieme con l'impresa, perché questo è possibile soltanto in modo congiunto, a guardare aspetti più intangibili, qualitativi, molto più proiettati verso il futuro. Questo consente di integrare la visione puramente quantitativa del rating. Cioè, ma se io fossi un imprenditore e vi avessi chiesto soldi, non so, 1 milione di euro, nel 2006, 2005, 2004, prima di ogni avvisaglia, e ve li chiedessi invece domani, che cosa cambierebbe nel vostro approccio, a parte che mi rispondereste comunque no? No, dipende, assolutamente. Guarderemo come al solito ai fondamentali di carattere quantitativo, per cui guarderemo sicuramente agli indicatori di bilancio, guarderemo al business plan dell'azienda, al business plan dell'investimento. Poi il risultato finale potrebbe essere già di per sé un risultato che abilita l'erogazione del credito. Qualora questo non bastasse, possiamo già di per sé guardare aspetti intangibili, cioè guardare l'azienda se ha dei vantaggi competitivi derivanti da fattori quali possono essere l'innovazione, la presenza di brevetti, il fatto di essere parte o meno di una filiera, quindi faccio un investimento per riqualificare il mio processo produttivo, ma sono parte di una filiera che naturalmente si riferisce a un buyer, un capo filiera, che ha condizioni a questo punto di rating, di accesso ai mercati internazionali, che magari questa azienda più piccolina non ha. Un altro elemento che guardiamo, qualora la dimensione consenta a questa azienda di andare all'estero, è per esempio la percentuale di internazionalizzazione. Questi sono tutti quanti elementi che dal bilancio, e lo sappiamo, i bilanci delle aziende chiaramente non sono bilanci di aziende quotate, quindi non hanno una profondità informativa tale da poter fare queste valutazioni, sono elementi che nel dialogo con l'imprenditore consentono di migliorare il profilo di rating. Cosa significa questo? O abilitare l'erogazione, qualora questa non potesse avvenire nell'ipotesi precedente, perché migliora il profilo di rating e quindi di merito creditizio. Cioè, da un punto di vista quantitativo non me l'avreste dati questi soldi, ma valutando questi altri aspetti migliorate. Possiamo possiamo provare a darli, perché si migliora il merito creditizio, allo stesso tempo migliora anche il profilo di costo, perché a quel punto, migliorando il rating, migliora anche il pricing, cioè il tasso al quale posso farlo. Ecco, ma intanto voi state applicando il cosiddetto rating di filiera, che lo spiego a tutti, vuol dire sostanzialmente che sono una piccola impresa e sono fornitore o subfornitore in una catena di una componente, oppure ho in mano la parte commerciale o altre forme di servizi. Se sono integrato in una cosiddetta filiera del valore, dove poi la capofila, cioè a monte o a valle, poco importa, ma si genera valore, posizioni importanti, voi valutate non me come impresa Sebastiano Barisoni, ma me come impresa inserita in questa filiera. Ecco, lo state applicando realmente? Sì, sì, lo applichiamo realmente, sono 500 circa le filiere già formalizzate, e quindi dove il capofiliera ha riconosciuto i suoi fornitori strategici, a queste aziende noi riconosciamo addirittura un miglioramento del rating fino ai livelli del capofiliera. Quindi se la società, l'impresa a cui io fornisco la mia componente o il mio servizio mi riconosce come strategico, come fondamentale per arrivare a quel prodotto finale, questo migliora il mio rating, il mio giudizio anche per voi. Sì. Ecco, ma tornando, mi scusi se insisto alla parte precedente, cioè la valutazione dei cosiddetti intangible assets, cioè vuol dire tutto quello che non entra in un bilancio, la qualità delle persone con cui lavori, il tuo posizionamento strategico, il piano che hai presentato, veniva fatta anche prima, non è che prima non venisse fatta. Allora, la differenza quando parliamo di rivoluzione 4, appunto, di quarta rivoluzione industriale rispetto al pre, rispetto alla terza rivoluzione industriale in cui vivevamo molti anche bene fino al 2001, 2003, 2008, qual è? Ma allora guardi, usiamo proprio il tema del 4.0, è proprio la formalizzazione e l'utilizzo dei dati. 4.0 non è soltanto rifare un processo produttivo, ma è digitalizzarlo e poterne utilizzare i dati per migliorare naturalmente non soltanto la mia produzione, ma anche quelle collegate. In realtà per la banca è uguale. Il rating intangibile non è che non venisse fatto prima, era nella testa del bancario che lo faceva. Oggi in realtà con il rating che abbiamo, naturalmente abbiamo validato, perché è un rating validato dalla BCE, fa parte integrante del rating complessivo, questo è un qualcosa che rimane nei sistemi della banca, è strutturato, è disponibile, quindi ha una profondità nel tempo e quindi consente di rendere 4.0 il rating, e quindi è un'evoluzione importante rispetto alla sua introduzione diversi e diversi anni fa. Ecco, un'ultima cosa su questo, per valutare i cosiddetti beni intangibili è importante anche il rapporto, l'esperienza di chi poi va a fare il colloquio con l'imprenditore. Allora, una delle critiche che era emersa anche pre-scoppio della crisi era stato quella al modello in cui i direttori di filiale o chi aveva le competenze, diciamo, per erogare il credito ruotavano come trottole. Sostanzialmente l'idea di banca universale faceva sì che tu potessi applicare algoritmi e valutazioni quantitative a tutti, e molti hanno detto attenzione, il venire meno di un rapporto umano che è intangibile, non lo può mettere nel curriculum, ma è chiaro che se io conosco bene un territorio, conosco la storia degli imprenditori, conosco la famiglia di quell'imprenditore nel caso che il capitale sia familiare, conosco i rapporti che ha, posso fornire una valutazione più alta. Ecco, investire nelle risorse e nella parte intangibile non significa anche valorizzare i direttori o i responsabili di filiale sul territorio? Assolutamente, è così, e c'è grande soddisfazione da parte delle persone sul territorio in un approccio nuovo che rende ancora più stretto il rapporto fra il bancario e l'impresa. Questo assolutamente. Ma li farete ruotare, cioè valorizzerete la conoscenza e la penetrazione del territorio o no? Ma allora guardi, la rotazione delle persone sul territorio da parte della banca è un elemento che è a beneficio comunque sia dell'imprenditore che del collega, perché comunque il collega quando ruota consente a lui di vedere ambiti nuovi di territorio e magari anche settori nuovi se pensiamo alle imprese. Dall'altro lato questo consente per l'imprenditore di avere naturalmente non un'intera filiale nuova, ma magari una singola relazione nell'ambito di una relazione che comunque anche all'interno della banca prevede che ci siano più rapporti, perché c'è il gestore, c'è chiaramente il direttore, il direttore commerciale. Normalmente calcoli che la relazione con l'imprenditore non è mai univoca, è sempre fatta all'interno della filiale, partendo dal direttore, anche dal gestore e da figure che poi sono magari più centrali. Allora, dopo il traffico, l'ultimo tema è che ci porta a parlare dei dati di oggi su occupazione e disoccupazione, ma soprattutto sulla cosa per me ancora più incredibile, e mi riferisco al fatto che manchino centinaia di migliaia di diplomati, di laureati, come dichiarazione di Unioncamere. Prima però, brevemente, una nota, perché mi ero riproposto di fare questa domanda. In questa ripresa macchia di Leopardo, che non è un'impresa che riguarda alcuni settori, riguarda forse più alcuni modelli di impresa, al di là del settore in cui operi. Lei ha trovato un comune denominatore da dire, insomma, noi vediamo che è a macchia di leopardo, sicuramente ci sono due capannoni, due imprese, una che sta andando molto bene e l'altra che ha ancora grosse difficoltà, e non c'entra il settore, non c'entra neanche spesso l'area geografica, per quanto le aree più vocate all'export è ovvio che si siano riprese prima, ma se lei dovesse trovare il famoso fil rouge, il comune denominatore. Allora, guardi, il primo elemento che è costante nelle aziende di grande qualità, a prescindere dalla dimensione, è la grande qualità della produzione. Aziende che hanno una grandissima qualità di prodotto o di processo sono aziende vincenti. Spesso sono aziende che per arrivare a questo livello hanno innovato, e quindi l'innovazione rappresenta altro fattore critico, fondamentale, e sono riuscite, a prescindere dal rapporto importante che possono avere magari con un capofiliere, stiamo parlando in questo caso di aziende più piccoline, in realtà sono comunque riuscite a diversificare i loro mercati, non soltanto nei confronti di un fornitore magari importante, 25-30% del fatturato, ma hanno anche una dimensione internazionale. Le aziende che hanno queste tre componenti e poi l'elemento di raccordo, perché la qualità si ottiene anche con un fattore umano di elevato standing, e quindi parlo del personale e anche a questo punto dell'imprenditore e del manager, quando presente, rappresenta l'elemento chiave e costante all'interno di queste aziende, che peraltro ci ha portato al rating qualitativo. Essendo questi, poi li valutiamo e li cerchiamo nelle aziende per migliorare il loro profilo di merito creditizio. Tutte cose che nei bilanci non ci sono. E allora dopo parliamo appunto della formazione sia interna che quella necessaria alle imprese. Qualcuno mi scrive: Zonin, lo conosceva molto bene, lo ha penetrato molto il territorio. Sì, immagino non come vorrebbe fare la banca, ma con un riferimento diverso, un diverso tipo di penetrazione. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Traffico. Focus Economia. To let myself. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dalla sede di Intesa San Paolo, stiamo parlando con Stefano Barrese che ha la delega di tutti i rapporti con il territorio del gruppo Intesa San Paolo, quindi 10 milioni di famiglie e 750.000 tra imprese e aziende retail. Adesso arriviamo alla formazione degli altri, cioè questa cosa allucinante per cui abbiamo una disoccupazione giovanile ancora altissima, ma le imprese non riescono a trovare diplomati e laureati. Ma parliamo della formazione e il 4.0 dentro di voi, perché per ora l'abbiamo sempre interpretata come digitalizzazione delle imprese, perché gli incentivi fiscali sono su questo. È chiaro che per voi questo vale un po' meno rispetto a chi fa prodotto o processo, innovazione di prodotto di processo. Cosa significa per voi la quarta rivoluzione industriale dentro la banca? Dentro la banca diciamo che è equivalente, nel senso la banca ha dovuto, parlo del nostro gruppo, digitalizzare tutti i processi che erano istituzionalizzati. Per noi ha significato un investimento importantissimo, dover rivedere tutti i processi, dover orientare la banca alla digitalizzazione, per cui ha significato anche per le persone della banca riorientare i loro comportamenti non soltanto nell'apprendimento di processi che sono cambiati in misura significativa, ma anche accompagnare i clienti in questo percorso. Per cui la banca negli ultimi anni ha fatto un grande, grande investimento formativo e anche un grande investimento dal punto di vista di capitale. Dopo vedremo invece cosa serve e quanto valutate la formazione e le qualità umane degli altri. Mi dica una cosa però al volo, perché mi chiede un ascoltatore, ma se io sono un'impresa e non ho un capofiliera, cioè non ho nella filiera di valore quel soggetto, cosa faccio? Beh, sicuramente ne parliamo, cerchiamo di comprendere insieme se appunto una percentuale del fatturato importante è su paesi appunto esteri e quindi non è concentrato sul territorio nazionale. Andiamo a vedere insieme non solo la presenza di brevetti, ma l'utilizzo dei brevetti, per esempio se è una PMI innovativa, se ha delle certificazioni di qualità ambientali o non ambientali, tutti elementi che ci consentono di migliorare il profilo di rating addirittura fino a 3 notch. Sì, poi do una risposta mia: se sei da solo, non sei in una filiera e sei poco presente sull'estero, ecco. È un punto di domanda. Sono volatili per diabetici. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Dopo il GR24, invece, i dati sull'occupazione. Chiederò un commento anche su questo a Stefano Barrese. Da Dai Deborah, racconti la borsa tutto il giorno, dammi un titolo. È meglio il petrolio che sale o il dollaro che scende? È arrivato, se lo sapessi avrei gran soldi in Svizzera, per cui mi servirebbero i tuoi consigli per fare la voluntary disclosure. La voluntary disclosure è meravigliosa, ma ne abbiamo tante di questioni da chiarire agli ascoltatori. Sì, perché non sono temi difficili, noi dobbiamo essere autorevoli. E leggeri. Sai, dobbiamo parlare con quella certa autorevole leggerezza. Bravo! Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Tutti i giorni alle 11 su Radio 24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Vi ricordo che stiamo trasmettendo da Piazza Corduse Milano all'interno del tour che il programma sta facendo in tutta Italia. Abbiamo iniziato a Vicenza, poi adesso Milano, poi andremo a Napoli e poi non ho ben capito se sarà Firenze o Bologna, ma insomma visiteremo anche il centro Italia per capire come sta andando il credito bancario. Lo facciamo assieme al gruppo Intesa San Paolo. Siamo con, ricordo, Stefano Barrese, che è responsabile della divisione banca dei territori di Intesa San Paolo, che vuol dire 10 milioni di famiglie come clienti e circa 750.000 come clienti tra imprese e aziende retail. L'ultimo punto che volevo affrontare con lei, Barrese, riguarda la formazione interna vostra, ma anche la formazione che andate a valutare come appunto asset intangibili quando valutate il merito di credito di un'impresa. Nel far questo ricordo che oggi l'Istat ci ha fornito un tasso di disoccupazione invariato nel mese di novembre all'11,1% rispetto a settembre. Gli occupati in più rispetto a ottobre 2016 sono 246.000, per un totale di 23.080.000 occupati. Cala il tasso di disoccupazione giovanile al 34,7%, il livello più basso da giugno del 2012. L'occupazione che cresce è quella dipendente, quella della fascia d'età sopra i 50 anni. Ma la cosa, a mio avviso, più eclatante è quanto emerge da un altro rapporto, quello delle Camere di Commercio, che attraverso Union Camere e il loro sistema informativo Excelsior hanno presentato oggi a Verona nel corso di Job Orienta, che è il salone internazionale dell'orientamento scuola e formazione. Che cosa emerge? Che le aziende vorrebbero assumere nel corso dell'intero anno 400, chiaramente l'indagine è iniziata all'inizio del 2017, 467.000 laureati e 1.415.000 diplomati, ma hanno ancora molte difficoltà con le seguenti caratteristiche: non riescono a trovare un laureato su tre col profilo che richiedono e quindi mancano 151.000 giovani laureati da assumere, e non riescono a trovare un diplomato su cinque con le caratteristiche richieste. Stiamo parlando di 290.000 neodiplomati che non vengono trovati. La nostra Piera Ceci ha raggiunto il segretario generale di Uncamere, Giuseppe Tripoli, proprio per un commento su questo che in inglese si chiama mismatching, cioè quando la domanda di lavoro non incontra una pari offerta di lavoro, quanto mai grave, a mio avviso, visti i dati sulla disoccupazione giovanile. Le aziende ci dicono che nel caso delle lauree addirittura in un caso su tre fanno fatica a trovare il laureato, e qui stiamo nell'ambito non solo dei problemi che conosciamo bene del mismatching tra domanda e offerta, ma anche della conoscenza e della competenza specifica e adeguata per il ruolo che devono coprire in azienda. Spesso trovano persone laureate, ma la laurea non corrisponde esattamente al tipo di formazione che le aziende richiederebbero per coprire quel ruolo in azienda. E lì è l'ambito soprattutto di quelle che gli anglosassoni chiamano lauree STEM, quindi degli indirizzi legati al terreno scientifico, tecnologico, dell'ingegneria, della matematica, a cui aggiungerei quest'anno abbiamo notato che c'è una richiesta di laureati in lingue su cui le aziende pensano di ritenere di avere far fatica a trovare la persona giusta. Questo è l'ambito che richiede più fatica per le imprese per essere coperto, e devo dire, dentro quest'ambito la difficoltà cresce per quelle particolari professioni legate a impresa 4.0, a tutto il mondo 4.0, per esempio alla robotica, matematica, alla sensoristica, alla gestione dei dati. Quindi quando cercano figure di quel tipo la difficoltà per le aziende cresce ancora di più. Lo stesso si può dire anche sui diplomi, perché anche i diplomati più difficili da trovare sono quelli legati per esempio all'ICT, all'elettronica, alla meccatronica. Anche lì quando l'azienda si orienta verso professioni di futuro legate al mondo 4.0, per esempio, lì comincia a far fatica davvero a trovare la persona giusta, ed è un peccato perché sarebbe un problema che si può risolvere sia favorendo e facilitando un migliore incontro tra domanda e offerta, sia facilitando e favorendo il fatto che ci possono essere delle formazioni più mirate alle figure che in azienda servono. Allora Barrese, adesso chiaramente questo è un dato che impressiona tutti noi, anche perché quando devi formare poi dei giovani parti adesso per farlo fra 4 anni o 5 anni, secondo che sia laurea breve, 3 anni, diploma, ma è importante che le famiglie in ascolto lo sappiano, oltre che i giovani in ascolto lo sappiano. Sta emergendo che proprio per le imprese che, come diceva anche il segretario di Unioncamere, hanno bisogno di figure o per il 4.0, digitalizzazione delle imprese, o per le lingue addirittura, perché chiaramente il grosso dei fatturati si fanno all'export, nelle imprese che stanno andando bene, c'è un mismatching, c'è un non incontro tra domanda e offerta. Devo dire che è un'analisi assolutamente calzante. Anche noi come banca, quando cerchiamo degli ingegneri, facciamo proprio grandi difficoltà a trovarli. La maggior parte delle aziende e gli ingegneri li prendono ancora prima di uscire, e quindi questo già è un elemento importante su qual è, diciamo, il profilo delle professioni del futuro. Ma il 4.0, il mondo va verso il digitale, quindi tutto ciò che è legato a questo mondo, quindi ingegneri, matematici e quant'altro, vanno fra virgolette a ruba, informatici. Il tema delle lingue è altrettanto importante. La lingua del mondo è sicuramente l'inglese, l'inglese è la lingua del mondo digitale, l'inglese bisogna conoscerlo. La maggior parte delle volte, quando si colloquia anche un neoassunto o una persona che vuole entrare in azienda, troviamo dei livelli di conoscenza delle lingue molto basso, cioè persone, ragazzi o ragazze che hanno il C1, che è un livello adeguato per poter, fra virgolette, competere nel mondo, chiaramente, no, dell'occupazione, sono pochissimi, per cui è calzante. Bisogna trovare il modo per far sì che le aziende incontrino naturalmente il mondo dell'occupazione. L'alternanza scuola-lavoro è una modalità, nella misura in cui viene fatta con un matching già perfetto con le aziende. Noi qualche volta abbiamo provato, nel senso che abbiamo provato degli schemi mettendo insieme degli istituti tecnici con le imprese, con la banca che si occupava naturalmente del percorso di alternanza scuola-lavoro. Il profilo qual era? Era un profilo, fra virgolette, di sicurezza nel momento in cui il ragazzo o la ragazza usciva dalla scuola verso il lavoro, di fatto una sorta di garanzia all'occupazione. Questo va fatto già nel momento in cui le persone sono nella fascia dello studio, altrimenti nella fase successiva spesso queste persone potrebbero, fra virgolette, volare all'estero, che non significa necessariamente una cosa negativa, perché poi il tema lì sarà riuscire a riportarle indietro, visto che le nostre aziende hanno bisogno naturalmente. C'è anche la componente salariale, però attenzione, lo dico a chi scrive, sicuramente c'è la componente salariale, ma se tu non hai la qualifica, la formazione, non c'è componente salariale che tenga, perché l'azienda non ti cerca o l'impresa non ti cerca. Poi qualcuno mi dice, li pagassero di più i nostri ingegneri, va bene, se sarà così, e se il problema è principalmente salariale, il mercato lentamente si regolerà, perché nessuno poi va a perdere in competitività per non spendere dei soldi in più. Da quello che noi vediamo, il problema in primo luogo è di formazione, poi possiamo ragionare anche dei salari. Grazie comunque a Stefano Barrese per questa lunga intervista sui vari temi che riguardano il rapporto banche e imprese, ma noi continuiamo a parlare dei dati sulla formazione dei nostri giovani, della formazione anche interna, non solo dei giovani, dei dipendenti, degli occupati, perché il prossimo 5 dicembre a Roma vi sarà il convegno Sapere dove andare, politiche per la formazione e politiche per l'innovazione. Si incontreranno sostanzialmente il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia con i segretari generali di CISL, quindi Anna Maria Furlan, e di UIL Carmelo Babagallo, e il segretario confederale della CGIL Tania Sacchetti, il tutto organizzato da Fondi Impresa. E siamo in collegamento con Bruno Scuotto, che ne è presidente. Buonasera. Sì, buonasera. Fondi Impresa, per chi non lo sapesse, è il fondo per la formazione continua all'interno di Confindustria, CGIL, CISL e UIL. Conta 182.000 imprese aderenti, con più di 4 milioni e mezzo di lavoratori e ha fino ad ora erogato quasi 3 miliardi, 2 miliardi e 800 milioni di finanziamenti per la formazione. Tra l'altro questi soldi, iniziamo dagli stanziamenti, come vengono distribuiti nelle varie aree, quindi sicurezza sul lavoro, competitività, riqualificazione? Prego Presidente. Allora, diciamo che il fondo è nato un bel po' di anni fa e per la metà di questi importi che lei ha citato ha affiancato percorsi di formazione che riguardavano la competitività e l'innovazione, quindi diciamo che se vogliamo vederla con gli occhi di un percorso già tracciato in questi anni, il fondo è nato per, in tempi in cui probabilmente innovazione se ne parlava in maniera marginale, è nato per accompagnare a una diffusione della cultura dell'innovazione le imprese, quindi gli imprenditori e i lavoratori. E voi avete appunto metà, più o meno un miliardo di euro per competitività e innovazione erogato a fine 2016, un altro mezzo miliardo, un po' di più, 600 milioni appunto per la salute e sicurezza sul lavoro, poi anche 110 milioni per la riqualificazione dei lavoratori. Visto che prima commentavavamo il dato Unioncamere che riguardava le aziende e quindi il mezzo milione di laureati che vorrebbero assumere e un milione e mezzo di diplomati, ma denunciano a trovare un laureato su tre con le caratteristiche richieste e un diplomato su, che vuol dire 150.000 sulla stima complessiva, e un diplomato su cinque con le caratteristiche richieste, siamo 300.000 diplomati appunto che non hanno le caratteristiche richieste. Voi operate con persone che sono già dentro il mondo dell'impresa, avete intenzione di spingere ancora di più sulla parte di riqualificazione dei lavoratori? Sì, assolutamente, noi siamo chiamati a questo ruolo, c'è stato un dibattito alla fine del primo semestre dell'anno che stiamo vivendo che ha riguardato molto questa richiesta di far interessare i fondi interprofessionali delle politiche attive. Io credo che quello delle politiche attive sia un tema che riguarda il nostro paese, nel senso che qualcuno se ne deve assolutamente occupare, perché ci sono delle cifre che lei ha citato e che sono paradossali e gravi, nel senso che un paese che comunque ancora denuncia una percentuale di disoccupazione alta, in alcune aree molto alta, c'è questo fenomeno del mismatch che è oramai diffuso, cioè di figure professionali che non riescono a essere reperibili sul mercato del lavoro e quindi delle imprese che in qualche maniera devono faticare o addirittura lasciarli vacanti, perché questa poi è la soluzione. Quindi sicuramente noi continueremo a fare il nostro dovere, il nostro impegno sarà massimo per l'attività di formazione di figure professionali già impegnate con tutto quello che riguarda oggi la riqualificazione e la ricollocazione di alcune figure professionali nel mercato del lavoro, e siamo stati chiamati, siamo disponibili, ma ovviamente ci sono delle condizioni a contorno che si devono verificare, anche interessarci più diffusamente delle politiche attive, e quindi penso ai ragazzi da inserire nel mondo del lavoro, alla formazione dei tutor per l'alternanza scuola-lavoro e tutto quello che ne viene insieme. Che cosa si aspetta, per concludere, che esca fra una settimana alla luce anche dei dati che stiamo commentando oggi dall'incontro che avete organizzato appunto tra il Presidente Confindustria e i principali segretari delle organizzazioni sindacali? Ma guardi, è ovvio che per quanto il fondo rappresenta il 50% dei fondi italiani, ha ovviamente un posizionamento importante in questa attività, è chiaro che i nostri, mi consenta il termine, danti causa, quindi la Confindustria che io mi onoro di rappresentare nel fondo e quindi il Presidente Boccia e le organizzazioni sindacali hanno quell'autorevolezza e quel contatto diretto con gli organi di governo che possono in qualche maniera, ripeto, risolvere quelle soluzioni, quelle situazioni a contorno a cui facevo cenno e spingere perché i fondi e il nostro fondo si possa impegnare anche su questa questione che, ripeto, ritengo diventa urgente rispetto ai numeri che stiamo guardando. Allora, nella speranza che appunto possano uscire giovedì prossimo anche proposte concrete, i lavori poi saranno chiusi dal Presidente della Commissione Bilancio della Camera, Francesco Boccia, grazie ancora al Presidente del Fondo Impresa, Bruno Squotto. Grazie, grazie a voi, buona serata. E adesso andiamo sul traffico, poi la borsa e il tema, diciamo, del poco peso dell'Italia a Bruxelles, visto che ormai è decaduta la candidatura, non vi sarà proprio, del ministro dell'economia Piercarlo Padoan come nuovo presidente dell'Eurogruppo al posto di Jérôme Dijsselbloem. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora, vedo ancora molti messaggi al 349-238-6666 sul tema delle domande che non vengono evase di occupazione da parte delle imprese, diplomati, un quinto non si trovano, un terzo dei laureati. Alcuni scrivono cose, a mio avviso, anche costruttive e corrette, altri veramente non li capisco. Allora, molti, il tema degli stipendi, i nostri laureati o diplomati vanno all'estero. Ripeto, se il tema è solo gli stipendi, prima o poi un mercato inizierà a offrire di più qui, perché se mancano veramente queste figure solo perché vanno all'estero, sei disposto a offrire di più. In realtà quello che è emerso è che mancano, perché mancano il numero di laureati e diplomati nelle discipline interessanti. Qualcuno mi scrive: la realtà è quella della dipendente licenziata da Ikea, non le cavolate che voi raccontate, scrive un'altra cosa. No, c'è quella realtà e c'è anche quell'altra. La realtà non è solo una, non è solo quella che vede uno. Le lingue non servono a niente, visto che assumete solo bangladesi, ignoranti, vabbè, allora se la vede così non faccia proprio studiare suo figlio, se questo è il ragionamento, ma non fateli studiare, o mandateli in massa a scienze della comunicazione, così, no? Tanto il giornalismo mi sembra che sia uno dei settori più in crescita in questo paese, no? I media, i giornali, tutti lì, ma perfetto, lasciate stare ingegneria, ingegneria gestionale, informatica, le lingue. Ma dai, guarda, posso dire che quello che diceva poco fa Stefano Barrese lo vediamo anche noi modestamente quando facciamo dei colloqui, che l'inglese nella maggior parte dei ragazzi è ancora un inglese non sufficiente, mai me lo sarei aspettato essendo io un po' più vecchio, immaginavo che avrebbero tutti conosciuto l'inglese particolarmente bene. Poi le riflessioni la fanno i giovani, le fanno anche i loro genitori, che magari alcuni dei quali stanno anche scrivendo su. Allora, la borsa rapidamente oggi, giornata priva di grandi spunti, anche perché lo spunto più importante è quello che abbiamo commentato con lo stesso Barrese della NUI, che avvantaggia le banche, e quindi l'ammorbidimento, il caso per caso nel nuovo modo di contabilizzare le sofferenze bancarie dal 1 gennaio 2018. Biper Banca più 3,90, Unipolsai più 2,60, UBI più 2,60, Banco BPM più 2,20, Unipol più 2, Mediobanca più 2%, tra i non bancari Campari più 2%, Italgas più 1,90, Luxottica più 1,70, Generali più 1,12. Saipem, fronte opposto, perde il 3,10%, Ferrari l'1,80% e Exor l'1,17%, Mediaset cala sostanzialmente dell'1%. Ancora Estir un po' salita dopo l'accordo con Amazon per l'internet delle cose. Saipem oggi è l'ultimo giorno che nell'indice Morgan Stanley, da domani viene sostituita da Campari, che infatti sale. Migliori e peggiori: Mondo TV più 9,20, Bomi Italia più 4,60, peggiori Novare meno 10, Netweek meno 8,75%. Adriana Ceretelli, la mitica, per chiudere questa puntata. Buonasera Adriana, in collegamento con noi da Bruxelles, dove è editorialista del Sole 24 Ore sui temi europei. Adriana, insomma, anche l'ipotesi che potesse arrivare Padoan alla presidenza dell'Eurogruppo tramonta. Ieri il premier Gentiloni ha detto: beh, con un governo in scadenza tre mesi, questo ha pesato, i candidati si vanno a prendere tra ministri che hanno governi più duraturi, e il portoghese Mario Centeno è in testa. È un altro segnale che contiamo sempre meno in Europa, quindi vede la vicenda della sede dell'Istituto Farmaceutico Europeo che non è andata a Milano, oppure è solo una coincidenza? No, non direi che è una coincidenza, secondo me, non secondo me, ma insomma nella realtà la candidatura Padoan era un nostro auspicio, ma non è mai stata seriamente presa in considerazione, non per la persona naturalmente, ma per le circostanze. La prima circostanza è che il governo è in scadenza e quindi il mandato del presidente dell'Eurogruppo di 2 anni e mezzo, e non si voleva scegliere qualcuno che magari tra qualche mese non ci sarà più. E l'altra ragione è che naturalmente abbiamo Draghi alla BCE, senza contare che abbiamo anche il Presidente del Parlamento Tajani europeo, la Mogherini come, diciamo, Ministro degli Esteri. Quindi insomma siamo abbastanza ben serviti. La vicenda invece dell'EMA secondo me è totalmente diversa, nel senso che noi abbiamo giocato abbastanza bene la partita. La vera verità è che avremmo dovuto vincere al secondo turno invece di quei famosi 12 voti, prenderne 14 e avremmo vinto. È lì il punto sul quale si può discutere, nel senso che non siamo riusciti ad avere una sufficiente influenza sui nostri partner per poter avere questi famosi 14 punti. Ma poi strillare contro il sorteggio, voglio dire, quello è l'alea che c'è in tutte le situazioni, e a quel punto non c'era niente da dire, in sostanza, no? La vera partita era il secondo turno, quindi anche lì non la vedo come un calo dell'influenza, perché semmai siamo riusciti, diciamo, a difenderci bene per una volta, insomma, non... E poi io non la vedo come una sconfitta, cioè è una sconfitta perché non abbiamo avuto l'agenzia naturalmente, ma non è una sconfitta perché abbiamo giocato male. Avremmo potuto giocare meglio, ma non è certamente una situazione nella quale usiamo coincide nel sacco. Non lo colleghi, a differenza di quanto hanno fatto alcuni, mi sembra di capire, nel ringraziati, non lo colleghi alla doppia partita, quindi presidenza Eurogruppo con... Invece destinazione dell'EMA, lì c'è chi ha detto, lo dico perché leggo il messaggio, che forse il solo sottosegretario Gozzi era un po' debole, ma ripeto, c'è stato anche tra virgolette un tradimento spagnolo e tedesco su questo. Riavremo la mitica, chi mi chiede, ma la mitica quando tolla? Riavremo la mitica, perché la mitica è sempre con noi spiritualmente e poi anche verbalmente, perché è nostro ospite. Intanto grazie a Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Domani torniamo in onda alle 17, ci sarà la poco invidiabile classifica, ci sarà anche il rapporto del Censis su come cambia l'Italia. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.